Frege, che ha riassunto in questi termini la sua interpretazione. In quanto questo fondamento del mondo metafisico, cioè la volontà, non è però riferito ai fenomeni, è ineffabile, libero da brama, finalità e divenire, è la bellezza disinteressata in sé, il nulla buddistico, sublime al di là di ogni finalità e di ogni cambiamento. Estetismo platonico e nichilismo buddistico sono uniti in questo ideale al di là del divenire, ovunque presente, e raggiungibile in ogni tempo attraverso il ripiegamento su di sé. Schopenhauer crede anche storicamente alle radici comuni del platonismo e del buddismo e, sottolineo quest'ultimo punto della citazione di Troeltsch, apre così l'interpretazione anticlassicistica della Grecia. Ora, l'interpretazione anticlassicistica della Grecia ha certi i suoi rappresentanti in pensatori più o meno influenzati dal pensiero di Schopenhauer, dal Burckhardt, al Rode, al Nietzsche. Essi hanno cioè certamente portato avanti, sotto lo stimolo di Schopenhauer, a dire il vero, più sotto lo stimolo di certi aspetti della sua Weltanschauung che delle sue visioni storiografiche, quella problematizzazione e ristrutturazione della immagine propria dell'interpretazione classicistica del mondo greco, del resto già iniziata prima da Friedrich Schlegel e da Kreutzer. In Schopenhauer c'è invece questo atteggiamento. Egli, pur conservando in generale l'immagine classicistica della grecità, va alla ricerca nel mondo greco di tutti quegli elementi e figure che possono scompigliarla, almeno per l'equazione mondo greco ottimismo, assumendoli a sua volta come sintomi di un sapere che anche in esso non è mancato, cioè anche in esso mondo greco, e che si tratta di riprendere, sviluppare e portare a compimento. Così, mentre Nietzsche, ad esempio nella Nascita della tragedia, cerca di individuare una risposta greca al pessimismo che si distingue da quello orientale, Schopenhauer sottolinea quei caratteri della visione pessimistica del reale che si incontrano nella civiltà greca e insiste sull'affinità di certe concezioni riscontrabili nelle due civiltà e sul loro possibile influsso, che sempre più gli si configurerà quando avrà approfondito dei limiti a lui possibile il pensiero orientale come ipotesi di una derivazione indo-egiziana di certi temi centrali della filosofia greca. Per comprendere bene il pensiero di Schopenhauer su questo punto, occorre però aggiungere a tutto ciò alcune osservazioni, e qui sono quei criteri metodologici generali che sono un po' ovvi, ma però dichiaro perché il mio discorso si regge su quello. In primo luogo, egli ritiene che la visione del reale, di cui la sua filosofia vuole essere l'espressione più coerente e definitiva, sia stata in qualche modo sempre presente nella storia della filosofia e della cultura, trattandosi di una comprensione dell'esistenza immanente all'esistenza stessa e che quindi non può mai mancare. Questo è un punto di contatto fra Schopenhauer e l'esistenzialismo che secondo me non è stato abbastanza sottolineato. Solo una tale visione, pur nella sua presenza, non è mai rinvenibile nella sua purezza e si accompagna ad elementi di pensiero che potrebbero metterla in forse ed è bloccata nella sua espansione da visioni opposte e ad essa contrastanti, che si tratta di smascherare una volta per tutte nella loro inadeguatezza e superficialità. Si tratta cioè di rivivere e far emergere questa intuizione originaria, purificando le varie forme culturali, filosofia e religione specialmente, che ne sono depositarie, da quegli elementi che in molte case pure traggono seco e che sono tali da poterla tradire. Questo è il primo punto. In secondo luogo, egli non cessa di cercare nelle filosofie e nelle religioni simboli che lo aiutano ad esprimere questa verità o visione fondamentale, atteggiamento che a sua volta presuppose la tesi razionalistica della religione, come false metaphysique, che come espressione in miti e allegorie di quella verità che la filosofia esprime concettualmente e criticamente. Schopenhauer è su questo punto molto esplicito. una citazione di Parerga, non vi sono altre rivelazioni tranne i pensieri dei saggi, sebbene anche questi, in conformità al destino di tutto ciò che è umano, siano soggetti all'errore e spesso siano travestiti da strane allegorie e miti chiamati in tal caso religioni. Terzo punto. In terzo luogo, non si può porre, come abbiamo visto, il problema dell'interpretazione della grecità senza immediatamente porre il suo riferimento a quello del mondo orientale, la reazione Piantelli. Ora, a sfatare alcuni equivoci, si deve subito dire che non fu tanto la conoscenza del mondo orientale a dettare l'atteggiamento di Schopenhauer nei confronti della civiltà greca, quanto fu proprio il raggiungimento di un nucleo di convinzioni fondamentale, accompagnate da una certa maniera di rivivere il mondo greco e cristiano, a portarlo ad approfondire e assimilare il pensiero orientale una volta che venne a conoscenza di esso, fermo restando, cosa che poi Piantelli dimostrerà, che questa assimilazione si traduce in un nuovo approfondimento ed ampliamento della sua visione fondamentale. Sia un incontro con l'Oriente, un incontro con l'Oriente che muove però dall'Occidente, e non si muove dall'Oriente, questo è ovvio quasi. Per convincersi di ciò, basta guardare ai suoi manoscritti giovanili, soprattutto a quelli redatti tra il 1812 e il 1814, di cui stamattina ci ha parlato Mirri, antecedenti cioè al periodo della formazione vera e propria del sistema, 1814-1818. In essi Schopenhauer non è certamente giunto alla ricostruzione di tutto il reale sulla base dell'unico motivo della volontà, nel senso di affermazione e di negazione di essa, sebbene siano già chiare le indicazioni che va muovendosi in questo senso. Non ha ancora elaborato la sua filosofia della natura, e non sempre sono chiari i rapporti tra la sua gnosologia e le altre parti del sistema. Tuttavia, emergono i tratti della sua Weltanschau per illustrare i quali amerà rifarsi all'Oriente, cioè la concezione della negatività dell'esistenza temporale, su cui tanto ha insistito Mirri stamattina, e dell'Erlösung, della salvazione nel mondo della trascendenza, le sue intuizioni etico-religiose, insomma, per illustrare le quali si richiama la tradizione greca e la tradizione cristiana prima, e poi in seguito a quella orientale, in un rapporto di approfondimento e di arricchimento. Cominciamo quindi a vedere il mondo greco e poi un momento come interpreta il cristianesimo. Circa il mondo greco bisogna dire queste cose. Quel complesso atteggiamento di Schopenhauer nei confronti del mondo greco che risulta dall'accettazione della rappresentazione classicheggiante e dalla rottura con essa, di cui abbiamo detto, mi sembra si possa bene illustrare muovendo da questo passo giovanile. Anch'io sono un ammiratore del primo volume del Nachlass di Ibsen. Presso i greci, dice Schopenhauer, in special modo presso Omero, la coscienza migliore non si è ancora annunciata la coscienza e non ha ancora trovato alcuna espressione nel discorso. A questo si giunse solo tardi, immediatamente, figurativamente attraverso dispositivi molto elaborati, religione e filosofia. Allora riposava tutto sull'interiorità dello spirito, come un Dio nel sanctum sanctorum, e non cercava di manifestarsi nella coscienza empirico-razionale, come una regione essenzialmente straniera e insufficiente. Perciò Omero si attiene unicamente e senza esitazione al mondo dei sensi. È così puramente oggettivo. La vita è per lui un tutto come un tutto quel che le parole e i concetti raggiungano. Solo il mondo sensibile per lui ha diritto alla realtà. Anche gli dèi sono totalmente in esso, come l'orizzonte che chiude la prospettiva e soddisfa l'occhio. Se si tiene presente che con il termine coscienza migliore, e qui sono costretto a ripetere Mirri, Schopenhauer esprime il mondo della trascendenza, quello che poi chiamerà il mondo della noluntas, e che con il termine coscienza empirico-razionale o mondo dei sensi, il mondo della vita nella sua immediatezza, quello che poi chiamerà il mondo della libertà, si capisce che la Weltanschau greca si configura per lui come un naturalismo ottimistico. Tale naturalismo ottimistico, però, a differenza di quello dei moderni, si esprime nei greci nella sua ingenuità. nel senso che esso non si accompagna a una negazione formale della trascendenza. Ecco, non c'è la negazione formale, qui c'è ancora ingenuità. Ed è più, invece nel mondo moderno c'è la negazione formale, questo è il passato. Ed è piuttosto l'espressione di chi sa aprire la vita nella sua immediatezza, di chi vuol viverla in tutte le sue forme e non è ancora giunto a vederne il significato trascendente. Sono questi bambini greci. Pure Schopenhauer non crede che la Weltanschauung greca si esaurisca nel naturalismo ottimistico. Qui quella frattura con l'interpretazione classicistica del mondo greco, della Goethezeit. Egli sa che se i greci ebbero solo una religione fanciullesca e scherzosa, la serietà della vita si rifugiò nei misteri e nella tragedia. E se si pensa che egli, come allievo di Böck e di Wolf, era ben cosciente della parte che i misteri della tragedia ebbero nella vita dei greci, si capisce l'importanza di questa osservazione. Se gli antichi poi non seppero, come dice altrove, elevarsi a considerazioni superiori a quelle che importano la riflessione sui mezzi per raggiungere la felicità e non seppero impostare quella critica alla vita che secondo Schopenhauer solo può aprire da autentiche prospettive etiche, resta pur vero che ai greci si deve la compilazione dei sistemi filosofici in tutte le direzioni del pensiero umano. Lui è d'accordo con Whitehead, tutta la filosofia è una serie di glosse a Platone, in senso diverso da quello di Whitehead però. E che fra i filosofi proprio in Platone si trova una forma insuperabile di impostazione di quella critica e l'apertura a nuove prospettive etiche. Dice Schopenhauer, anzitutto si è qui menzionato che i greci, per quanto fossero lontani dalla concezione asiatica della vita e stessero decisamente dal lato dell'affermazione delle volontà, pure furono profondamente compresi dalla miseria dell'esistenza. Questo è poi dimostrato dalla invenzione della tragedia che ad essi aspetta. Questa frase di Schopenhauer, che sembra riecheggiare un'altra frase famosa del suo maestro Böck, ripresa poi dal Burckhardt, i greci furono più infelici di quanto per lo più non si creda, la infelicità del mondo greco, cioè, è contenuta nel volume secondo del mondo, cioè nei supplementi, nel quale anche si trovano le più decise affermazioni circa la presenza del pessimismo nel mondo greco. Essa non fa che confermare lo stretto legame tra la sua concezione della tragedia e la visione pessimistica dell'universo. La tragedia, infatti, per Schopenhauer una portata metafisica. Si presentifica il male come necessariamente inerente all'esistenza umana e l'esistenza come colpa e dolore. Se il male poi è qualcosa di ineluttabile, di necessariamente inerente all'esperienza mondana in quanto tale, la salvazione o redenzione sarà possibile solo attraverso un trascendimento dell'esperienza mondana. La tragedia, cioè, rivela non solo l'aspetto terribile della vita, ma anche la via della salvazione. La sua funzione altamente educatrice, infatti, per Schopenhauer, consiste nel liberare l'uomo da ogni illusione, per aprirlo alla trascendenza. Il tutto, naturalmente, non sul piano del pensiero, nel caso della tragedia, ma dell'intuizione artistica, col rendere lo spettatore partecipe della colpa tragica e del destino tragico dell'eroe. Citazione di Schopenhauer. Lo spettatore viene costretto ad elevarsi in un mondo superiore, dal quale i fatti di questo mondo, ciò che è conoscibile mediante l'intelletto, vengono considerati come apparenza e nullità. Egli sente il suo vero essere, ontos on, e raggiunge una soddisfazione assoluta e imperturbabile. Questa citazione, questo frammento che vi ho letto, è del 1812, antecedente quindi all'incontro di Schopenhauer con la sapienza indiana, che come sapete è del 13-14. E forse, in questo modo particolare di rivivere il tragico, si può vedere una delle fonti di quell'atteggiamento schopenhaueriano che si esprimerà nei termini della negazione della volontà di vivere e che spesso è stato visto con una certa unilateralità come uno dei risultati dell'assimilazione schopenhaueriana del pensiero indiano. Dico con una certa unilateralità, perché senz'altro c'è anche questo sullo sfondo. Questa concezione della vita trova poi la sua espressione, oltre che nella tragedia, nella filosofia presocratica, in Anassimandro, Eraclito, nei pitagorici, ed Empedocle, l'uomo completo per Schopenhauer, no? Empedocle è un uomo completo, frase che Nietzsche anche ripeteva. In particolare in essi Schopenhauer ravvisa la sua concezione del male come qualcosa di necessariamente inerente all'esistenza mondana in quanto tale, contrariamente a quella biblica, per cui il male è qualcosa che abbiamo introdotto noi, un atto di libertà in un mondo originariamente buono. Colpevolezza, dolore, morte costituiscono un nesso che caratterizza l'esistenza come tale, di cui essi, cioè i greci, furono ben consapevoli. Ma questa concezione della vita trova la sua espressione più alta in Platone. Per Schopenhauer, il platonismo è anzitutto una Weltanschauung, un modo di intuire la vita e comprendere l'esistenza umana. Tale Weltanschauung espressa molto bene un passo dei Parerga, un po' lungo, mi scuso, ma mi sembra essenziale e lo leggo. La nostra esistenza, dice Schopenhauer, non ha alcuna base e fondamento su cui riposare se non il fugace presente. Perciò essa essenzialmente come forma il moto continuo, senza possibilità di raggiungere la quiete da noi sempre desiderata. Somiglia alla corsa di uno che scenda giù dalla montagna, il quale se volesse fermarsi dovrebbe cadere, e si tiene sulle gambe solo continuando a correre, lo stesso per la sbarra tenuta in equilibrio sulla punta delle dita, o anche per il pianeta che cadrebbe dal suo sole appena cessasse di correre nella sua orbita. Dunque, l'inquietudine è tipica dell'esistenza. In un mondo del genere, nel quale non è possibile una qualsiasi stabilità, una condizione duratura, ma tutto si trova in un vortice che in mutamento incessante tutto urge, vola, si tiene sulla corda, camminando, muovendosi continuamente, non è possibile immaginarsi la felicità. Essa non può risiedere dove ha luogo soltanto il costante divenire senza essere di Platone. Tutto questo è l'esistenza finita, come opposta alla quale si dovrebbe pensare un'esistenza infinita, in quanto non esposta agli attacchi esterni, né bisognosa di aiuto dall'esterno e perciò aeos autos, in quiete eterna, ute apolluminum, ute gignomenum, senza mutamento, senza tempo, senza pluralità e diversità, la cui conoscenza negativa, è il motivo fondamentale della filosofia di Platone. Una tale esistenza deve essere quella a cui apre la strada la negazione della volontà di vivere. Chiudo la citazione, mi scuso per la lunghezza. Ma fin dalle sue prime note, queste note che abbiamo sentito stamattina commentare da Mirri, Schopenhauer aveva scritto: come possiamo meravigliarci che questo mondo sia il regno del caso, dell'errore, della follia, la quale vince dappertutto la saggezza, che in esso imperversi la malvagità e che ogni riflesso dell'eternità vi si trovi raramente posto come per caso, mentre migliaia di volte ne respinto? Come possiamo meravigliarci di ciò, io dico, dapoiché appunto questo mondo, ossia la nostra coscienza empirica, sensibile, intellettiva nel tempo e nello spazio, deve la sua ragione a ciò che secondo la coscienza migliore non dovrebbe essere? Non dovrebbe essere a ciò che per contrario la virtù e l'ascetismo, a ciò onde la morte beata dell'uomo pio una liberazione come il frutto maturo che cade dall'albero e rispetto a cui la vita intera del saggio è definita da Platone come un continuo morire. La Weltanschauung platonica trova così i suoi termini per Schopenhauer nel riconoscimento della nullità del mondo in cui viviamo e nella correlativa apertura alla trascendenza. Platone per Schopenhauer è il filosofo del dualismo che ha portato all'esasperazione il tema della trascendenza. E questo è il tono fondamentale della filosofia platonica, che Schopenhauer esprime nel primo dei passi citati con l'opposizione delle immagini del costante divenire senza mai essere e dell'essere sempre uguale a se stesso, che mai diviene e perisce, ma che, come abbiamo visto nel secondo passo, può essere espresso anche con altre immagini platoniche, e altre ancora se ne potrebbero aggiungere, o travasato nei termini stessi della filosofia schopenhaueriana, in quanto si tratta innanzitutto di aprire l'uomo a una comprensione dell'esistenza che queste immagini trova la sua espressione, ma ad esse non è necessariamente legata, per la comprensione dell'esistenza che è immanente all'esistenza stessa. Questi i punti forti della comprensione schopenhaueriana del mondo greco. Naturalmente neanche per Schopenhauer la grecità si lascia ridurre all'intuizione fondamentale che abbiamo visto percorrerla. Resta però che in essa questa intuizione preso corpo e che da essa venne trasmessa all'Occidente come una possibilità sempre attuale di comprensione di sé e del mondo. Per il resto, vale la concezione dicotomica della storia della filosofia cui abbiamo fatto cenno. Anche in Grecia non sono mancati tradimenti. E questa visione nel campo stesso, anche in Grecia non sono mancati tradimenti a questa visione nel campo stesso della filosofia. Ed ecco Schopenhauer a rigettare la filosofia di Anassagora, in cui egli vede prefigurarsi in germe l'odiata figura filosofico-religiosa del teismo e l'altrettanto odiato motivo speculativo della fisico-teologia, col ripugnante ottimismo mondano che trae seco. Ecco la critica a Democrito, in cui vede in germe quel materialismo meccanicistico, se ne parlava stamattina, che chiude l'esperienza umana nelle forme del principio di ragione, sopprimendo o trascurando gli aspetti più problematici del reale, che ne impongano per la loro stessa presenza il trascendimento. Ecco il rifiuto dello stoicismo, che è una vera e propria religione di questo mondo. Stranamente questa espressione ritorna in Simone Weil, tal quale, che non può non sfociare un'etica eudemonistica, la rivendicazione del neoplatonismo, che lo affascina per i suoi elementi mistici, religiosi, di sicura origine orientale. Si sa che questo è l'unico punto dove ha ragione circa l'origine orientale della filosofia occidentale. Questo quadro della grecità non sarebbe però completo se non si sottolineasse che essa parla Schopenhauer non soltanto per gli elementi pessimistici in essa rinvenibili, ma per un motivo altrettanto importante che in qualche modo sembra essere presente proprio nel loro opposto. Per capire ciò occorre ricordare che la Weltanschauung schopenhaueriana è percorsa non solo dalla negazione della volontà di vivere, ma da un senso panico del reale, da un senso prodigioso dell'unità della vita che si riversa nell'universo, dal senso dell'unità intima fra uomo e natura, e che anche in riferimento a ciò egli trova molto significativo il pensiero greco. Ancora una volta il rimando è qui ai presocratici, i veri filosofi schopenhaueriani, come diceva Nietzsche, all'enca ipan che in essi vi si trovava e che vedeva l'inizio di una tradizione monistica occidentale che, iniziata dagli ideali, dagli eleati, aveva trovato nel Medioevo il suo rappresentante in Scoto Ryugina e nel mondo moderno aveva avuto espressione in Bruno e Spinoza per rivivere ai suoi tempi con Schelling. È questo motivo che fa sì che la sua filosofia si configuri non semplicemente come una dottrina dei limiti del mondo, uso questa espressione wittgensteiniana, qual è il motivo del dualismo e della trascendenza fin qui studiato annuncia, ma anche come una vera e propria cosmologia, che fa sì che egli sappia rendere nella sua pagina quegli aspetti per cui la vita è insieme affascinante e terribile, che infine spiega quel continuo passare in essa dal dramma dell'esistenza umana, su cui penso al dramma del cosmo e viceversa, che pure la caratterizza. Questa è la sua visione del mondo greco. Passo ora alla visione del cristianesimo. Conseguentemente la riduzione della religione a mito succedaneo della filosofia, l'interpretazione schopenhaueriana della storia delle religioni è molto simile a quella della sua storia della filosofia. Durissima è la sua polemica contro il giudaismo, talvolta anche volgare, purtroppo. Questo è un tratto di Schopenhauer che effettivamente è difficile mandare giù. Del giudaismo che egli considera come il primo responsabile dello smarrimento nel quale, secondo lui, l'Occidente si trova per quel che riguarda le questioni religiose. Questa crisi religiosa viene bene fuori in una lettera a Frauenstadt, molto interessante, a proposito del libro di Frauenstadt. Il teismo, l'ottimismo, il realismo giudaico costituiscono per Schopenhauer l'argomento di una polemica continua. Il teismo è rifiutato come rappresentazione ancora mitica della trascendenza, un'applicazione di determinazioni fenomeniche, come la personalità e la causalità, a ciò che è al di là di ogni possibile determinazione fenomenica. Il concetto di Dio proprio del teismo è quello di un grunt dell'universo, quasi principio fisico della sua conservazione, che non può portarci fuori dall'universo stesso. Esso risulta, sono parole di Schopenhauer, dalla personificazione della natura in un sol colpo, come il politeismo e la personificazione delle singole parti e forze della natura. Appunto perché legato a queste rappresentazioni, il termine Dio non può essere usato per la trascendenza, che da Schopenhauer è pensata in opposizione al mondo, trascendenza pensata in opposizione al mondo, come la negazione del mondo, in cui troviamo la liberazione da esso. Cito Schopenhauer, che se poi fra i teisti, conclude Schopenhauer nell'ultima sua opera, cioè nel Parerga, ve ne sono di quelli che sotto il nome di Dio intendono il Nirvana, non vogliamo discutere con loro per via del nome. A quanto pare i teisti, a quanto pare i mistici intendono ciò. Rei intellecta in verbis simus facile. Conseguenze immediate del teismo sono l'ottimismo e il realismo. Nel quadro del teismo, infatti, l'esistenza umana viene spacciata come un dono. È il mondo considerato come buono, nonostante la urlante testimonianza delle miserie di cui è pieno. Dall'altra parte, l'ottimismo porta attribuire alla vita realtà piena ed è quindi legato al realismo, come l'idealismo al pessimismo. Tra i possibili significati che Schopenhauer dà al termine idealismo, vi è anche quello per cui la dottrina dell'idealità del tempo e dello spazio è assunta come indice della inconsistenza ontologica della vita, che in queste forme si disvela, per cui essa assume l'aspetto di un'ombra e di un sogno nei confronti di una realtà più profonda. Proprio questo pessimismo e idealismo, così vivo nel brahmanesimo e nel buddismo, manca nel giudaismo e costituisce il suo segno di inferiorità nei loro confronti. Coerentemente a questi principi, nell'ambito della religione ebraica, non compare il concetto di immortalità, che è presente invece in tutte le altre religioni. Che nei libri più recenti dell'Antico Testamento se ne trovino accezioni, non prova altro, secondo Schopenhauer, se non che si tratta di una dottrina che non le è propria e che è giunta dall'esterno. Dal punto di vista del realismo, ottimismo giudaico, che limita la nostra vita al momento dell'affermazione della volontà di vivere, le nostre aspirazioni non possono essere che materiali ed egoistiche, quindi via immortalità dell'anima. In fondo all'egoismo fa appello la legge ebraica, ponendo come unico movente dell'azione il timore della pena o la speranza della ricompensa, e in tal modo rendendo impossibile un'autentica vita morale. Certo, il quadro ottimistico che Schopenhauer crede di poter desumere dell'Antico Testamento è rotto almeno dalla dottrina del peccato originale, che egli infatti riconosce in questa dottrina l'unica verità metafisica dell'Antico Testamento, il Glanzpunkt del giudaismo, il suo redeeming feature, che dovrebbe essere aggiunto proprio alla correzione del teismo ottimistico. Del resto, egli ritiene che questa dottrina, come quasi tutte le dottrine giudaiche, sia di derivazione dallo Zen d'Avesta. Quel che interessa sottolineare non è tanto l'inadeguatezza di questi giudizi, che è ben patente, perlomeno sul piano storico, quanto invece la radicale incomprensione che in essi traspare delle categorie fondamentali del pensiero biblico. In particolare si noti la riduzione del peccato a verità metafisica, che ben s'accorda con la sua interpretazione gnosticizzante del cristianesimo, pur interpretato e vissuto appunto in opposizione, salvo che per questo punto, cioè sul punto del peccato originale, al giudaismo, è in piena sintonia con i momenti più alti del pensiero greco. Rottura del cristianesimo. Qui veramente oggi si parla di proprio il contrario di quel che si fa oggi, no? Non leggere, proprio c'è questa rivendicazione del momento greco. Il pensiero, il cristianesimo si concepisce soltanto attraverso i greci. I giudei, leggere il cristianesimo alla luce dell'Antico Testamento, come si fa oggi, in fondo, è tradirlo. Qui è proprio il contrario, non c'è nessuna attualità. L'interpretazione del cristianesimo, come già quella della grecità, non può però essere presa in esame senza prendere in considerazione il problema dei rapporti del suo pensiero con quello orientale. Già abbiamo accennato al come la questione debba porsi. Schopenhauer presenta la sua dottrina non solo come l'erede di una tradizione filosofica che passa per Platone e per Kant, ma anche come un ritorno alla sapienza indiana, alle Upanishad in primo tempo e al buddismo in un secondo tempo, con progressiva accentuazione di una preferenza del secondo, cioè del buddismo, rispetto al primo. Sembra quindi evidente che se mai una tradizione religiosa ebbe influenza sul suo pensiero, fu quella vedantica, e che intanto gli poté assimilare ad essa il cristianesimo, in quanto lo interpretò alla luce della sapienza orientale precedentemente assimilata. Le cose tuttavia non stanno così semplicemente come si è già indicato. Schopenhauer, nei suoi primi tentativi di illustrare il suo pensiero, rifacendosi a una tradizione religiosa, fa ricorso alla tradizione cristiana. L'interpretazione del cristianesimo che svolge lo priva però, priva il cristianesimo, di tutti quei caratteri che gli sono peculiari nei confronti delle religioni orientali, sicché egli finì con l'affermare la sostanziale identità del cristianesimo con esse, una volta che ne venne a conoscenza, affermando la derivazione anche storica del cristianesimo da esse. Schopenhauer, cioè, incontra le religioni orientali nell'approfondimento di un'intuizione filosofica iniziale, che è quella che abbiamo visto emergere a contatto col mondo greco, e per la quale, oltre che Platone, molto contro un certo Kant interpretato in termini platonici, e ad essa simile al cristianesimo una interpretazione che lo prepara ad affermare l'identità con le grandi religioni orientali, nell'interpretazione che lui ha dato, naturalmente non è detto che sia quella autentica. In un passo molto significativo del 1813, questi anni fatali, in cui Schopenhauer incontra l'India, incontra il misticismo e giunge alla tematica della volontà, piuttosto che parlare di coscienza migliore, di coscienza empirica. In un passo molto significativo del 1813 assistiamo alla trascrizione filosofica di quella che per lui sono i due dogmi fondamentali del cristianesimo, quello dell'umanità decaduta con Adamo e quello della sua redenzione con Cristo. Richiamandosi alla Epistola ai Romani 5:12-21, egli infatti afferma: è una dottrina del cristianesimo in senso stretto vera, eccellente, profondissima, che con la caduta di Adamo la maledizione ci ha colpiti tutti, il peccato è entrato nel mondo, la colpa si è trasmessa a noi tutti e al contrario, attraverso la morte e espiazione di Gesù, noi tutti siamo stati purgati, il mondo redento, la colpa espiata e la giustizia pagata, sicché noi tutti siamo partecipi del peccato del primo e dell'espiazione del secondo. Lo si deve riconoscere non appena si considerano gli uomini, non semplicemente nel tempo, ecco qui il mio incontro con Mirri, come indipendente l'uno dall'altro, ma l'idea platonica dell'uomo, la quale sta alla serie degli uomini come l'eternità in se stessa sta all'eternità che si estende nel tempo. Perciò appunto l'idea eterna dell'uomo, estesa nel tempo alla serie umana, appare di nuovo nel tempo come uno stato mediante legame unificante della generazione. Se ora si considera l'idea platonica dell'uomo, allora si vede che il peccato di Adamo rappresenta la natura finita, animale, peccaminosa dell'uomo, in quanto dà un'innegabile testimonianza di essa. Considerato da questo punto di vista, l'uomo è così un essere caratterizzato dalla finitudine, in preda al peccato, al dolore e alla morte. Invece la dottrina e la morte di Gesù esprimono al contrario il lato eterno e soprannaturale, la libertà e la redenzione dell'uomo, sono una testimonianza innegabile di essa. Ogni uomo è come tale non solo Adamo, ma anche Gesù. Egli può considerarsi come quello, ma anche come questo, a seconda di come si considera, è dannato in preda alla morte oppure redento nella vita eterna. Questo passo che vi ho letto si trova ripetuto, che nel 1813 si trova ripetuto tal quale nei supplementi del mondo, nel secondo volume, cioè del 1844. Solo l'ultima frase, in conformità al passaggio nella filosofia di Schopenhauer, dalla posizione coscienza temporale, coscienza migliore, a quella affermazione negazione della volontà di vivere, viene così modificata. Ogni uomo ora è come tale e potenzia tanto Adamo che Gesù, secondo che egli si atteggia, si fa determinare dalla sua volontà. In seguito a ciò, egli allora dannato e caduto in presa alla morte, oppure redento raggiunge la vita eterna. Adamo diventa così il simbolo della volontà di vivere, Cristo quello della sua negazione. Quel che vedi caratteristico in questa opposizione Adamo-Cristo, in cui Schopenhauer vede la gran verità che forma il nocciolo di tutto il cristianesimo, è che il peccato è conservato come qualche cosa di necessariamente iscritto nella natura umana. La malvagità è affermata come qualche cosa posta con l'essere stesso dell'uomo e che anche in noi stessi si manifesta obiettivamente. Sicché la redenzione significa una rinnegazione della volontà di vivere, che trae necessariamente seco il mondo temporale, per tornare all'innocenza precosmica del nirvana, considerato come il regno della grazia, al di là della colpa e del male che dominano il regno della natura. Il richiamo al cristianesimo si pone così come richiamo a un cristianesimo che, perduta la sua fisionomia storica, acquista quei caratteri che abbiamo visto presenti e impliciti nelle esperienze più alte del mondo greco e che ugualmente si ritrovano nella interpretazione schopenhaueriana del brahmanesimo e del buddismo, e di cui la filosofia schopenhaueriana vuole essere la trascrizione concettuale. Il senso del cristianesimo è tutto nella consapevolezza che la nostra vita è colpa e peccato, la sua radicale insufficienza dunque, e nell'accentuazione dell'aspirazione che tale consapevolezza trae seco a un mondo altro e migliore, da raggiungersi attraverso la liberazione dei legami terreni. Schopenhauer assume nella sua filosofia questo bisogno di salvazione trascendente, che riconosce parte integrante del bisogno metafisico. Di esso la sua filosofia vuole essere la soddisfazione, almeno nel senso di indicare nell'arte, nell'ascesi, le vie che portano a questa salvazione. Egli ben riconosce che tale bisogno getta le sue radici nell'individuo e non esita a porsi, in nome di esso, contro la filosofia prevalente del suo tempo. Qui veramente, come diceva stamattina Tina, non è un figlio del suo tempo, è un uomo del suo tempo. Contro lo storicismo immanentistico, dominante gran parte della scena dell'Ottocento, che mirava ad assorbire il destino del singolo in quello dell'umanità o a risolvere le sue vicende in quello di una razionalità infinita di spiegantesi nella storia, Schopenhauer ebbe certo il merito di riportare il singolo di fronte a se medesimo, ne hai insistito anche tu su questo tema, e al problema del suo destino personale, della sua salvazione ultima, insomma, che non si può risolvere sul piano orizzontale della storia, ma solo su quello verticale della trascendenza. Se non che la maniera di vivere il tempo, in opposizione all'eternità che caratterizza il suo pensiero e che abbiamo visto emerge sia dalla sua interpretazione della grecità sia da quella del cristianesimo, lo porta non solo ad opporsi alle filosofie immanentistiche della storia, ma anche a rifiutare di considerare nella loro dimensione storica i due eventi centrali del cristianesimo, la caduta e la redenzione, trascritti in verità metafisiche. Anche al di fuori delle strutture metafisiche in cui Schopenhauer richiude il suo pensiero, c'è in lui una maniera di vivere il tempo essenzialmente diversa da quella cristiana. Per il cristianesimo il tempo può assumere un significato positivo, in quanto in esso si attua il disegno eterno e trascendente della salvezza, sicché si deve distinguere il tempo profano, corrotto, negativo della caduta e il tempo sacro, riscattato, orientato alla salvezza. Per Schopenhauer, invece, il tempo prende sempre soltanto l'aspetto dello status deiectionis nei confronti dell'eternità. Non può ricevere da essa alcun significato, solo deve essere fatto svanire al più presto per restaurare quello stato di innocenza che con l'avventura temporale è andato perduto. Alla concezione biblica per cui il male introdotto nel mondo creato dalla sovrabbondanza della bontà divina per un atto libero della creatura, Schopenhauer ha sostituito così quella della creaturalità stessa come male. Alla concezione neotestamentaria della salvezza come evento irrepetibile dell'incarnazione del Verbo, inserzione dell'eternità nel tempo, atto di Dio che compie la promessa fatta all'uomo aprendogli un avvenire di gloria e viene quindi a riscattare e compiere definitivamente il tempo, Schopenhauer ha sostituito quella dell'abbandono del temporale per l'eterno, di cui Cristo sarebbe il simbolo. Si ha così una radicale trasposizione dei temi del peccato e della redenzione dal terreno della storia, dove si configurano come eventi irrepetibili e irreversibili, a quello delle essenze intemporali. E proprio questa trasposizione definisce l'orizzonte gnostico dell'interpretazione schopenhaueriana del cristianesimo. Adamo e Cristo vengono a essere ridotti a due archetipi gnostici. Già Baader notava che questo era il distacco maggiore tra la filosofia di Schopenhauer e il cristianesimo, nel senso che rifiutando la concezione biblica del peccato e della redenzione, Schopenhauer veniva a rifiutare il carattere peculiare del cristianesimo, quello che lo differenzia da ogni altra religione, e assimilava per questa visione del male come qualcosa di necessariamente inerente alla creaturalità al finito, il pensiero di Schopenhauer a quello del suo odiato nemico Hegel, in quanto vedeva in ciò apparire il tema classico del razionalismo metafisico, della negatività del finito e della morte del finito come sua unica possibilità di redenzione. Per contro, Bader considerava essenziale garantire al fatto cristiano il suo carattere di unicità e irreversibilità, pur nello sforzo di penetrarlo speculativamente. Dice Bader, è tanto poco biblico, quanto poco filosofico, separare l'accadere interiore, quel che Hegel chiama contenuto da quello esterno, quel che Hegel chiama Geschichte und Historie, quanto mischiarlo e chiamarlo l'unica estrazione dell'altro il positivo. Piuttosto, il compito della filosofia è mantenere l'unità di questo accadere interiore e esteriore, tanto contro la loro separazione quanto contro la loro mistione, con cui sono rimosse tutte le false interpretazioni e i malintesi circa la filosofia, e specialmente svanisce quell'opposizione fra essa e la storia che Hegel ancora vuole mantenere. Mi avvio rapidamente alla fine. L'origine ultima, qui faccio qualche considerazione appunto su questa interpretazione del cristianesimo. L'origine ultima, l'orizzonte ultimo in cui il pensiero di Schopenhauer, per quegli aspetti per cui esso può essere rivendicato al pensiero religioso, e sottolineo questo punto, non vuole essere una conclusione sul sistema di Schopenhauer, sul pensiero di Schopenhauer, però c'è un significato religioso della filosofia di Schopenhauer, io voglio unicamente pormi in questa piccola zona. L'orizzonte ultimo in cui il pensiero di Schopenhauer, per quegli aspetti almeno per cui esso può essere rivendicato al pensiero religioso, si iscrive è dunque quello del razionalismo metafisico, definito alla maniera di Bader. Sia per la critica di ogni rivelazione e la riduzione della religione a mito, succedaneo della filosofia, sia per la tesi della negatività del finito, donde la sua fondamentale ambiguità. Questa qui è la quarta ambiguità rispetto che abbiamo trovato prima. Donde la sua fondamentale ambiguità circa il problema religioso, che ben si rivela nella sua valutazione della mistica. Qui forse uno dei punti più contestabili della mia relazione, quindi se può essere contestato mi fa piacere. Egli infatti finisce col trovare la risposta per il bisogno di salvazione che tutte le grandi religioni cosmiche, fra cui pone lo stesso cristianesimo, rivelano, nella mistica, come forma di religiosità che si afferma al di là dei miti e dei riti, lo dice esplicitamente, vero? I quali miti e riti, sono i due elementi che presenti in ogni tradizione religiosa, finiscono per inquinarla nella sua purezza. Una religiosità puramente mistica, al di là di ogni rivelazione storica, sentita immediatamente come mitica, è quello di cui può considerarsi campione, sul piano religioso naturalmente. L'esperienza mistica a cui la negazione della volontà di vivere dischiude e che Schopenhauer finisce col considerare supplemento positivo alle conclusioni negative della sua filosofia, soprattutto questo nei supplementi al mondo, si caratterizza per lui come esperienza di un'unità ultima ineffabile, al di là di ogni molteplicità. Siamo qui di fronte a quel momento estremamente problematico della filosofia di Schopenhauer in cui la volontà, vista come l'unità di un molteplice conoscibile filosoficamente ma sociologicamente negativo, viene relativizzata nei confronti di una superiore unità trascendente, sociologicamente positiva, ma inaccessibile alla conoscenza filosofica, cioè la nonuntas. Questo è il primo tratto. Su cui insiste soprattutto nei supplementi. Il secondo tratto, su cui insiste soprattutto invece nel mondo, come l'esperienza che ad essa si accompagna di una vita di gioia interiore e di calma veramente celeste, di pace imperturbabile, calma profonda, serenità interiore, di uno stato che non possiamo né contemplare né soltanto immaginare senza concepire il più vivo senso di invidia, perché lo conosciamo come il solo giusto, come solo che supera ogni altra condizione del mondo, tanto che ciò che vi è di migliore, qui compare di nuovo il destro, che ciò che vi è di migliore si agita in noi, vi ci invita, gridandoci dentro il grande sapere aude. Qui effettivamente questo secondo punto è quello su cui insiste più nel mondo. Qui faccio ancora alcune osservazioni e poi veramente chiudo. Se non che la mistica, quando pretende di riposare unicamente su di sé, ossia esclude la rivelazione storica, questo è il passo più problematico di tutta la relazione. Esclude la rivelazione storica che segna l'unione, ma anche la distanza tra Dio e l'uomo, cosa che secondo Schopenhauer essa non può non fare, perché proprio in ciò sta la sua vocazione intima e ultima, minaccia di vanificare i termini stessi del rapporto religioso che pure pretende comporre. Essa, cioè, minaccia di lasciare insoddisfatta l'esigenza religiosa, di cui è peraltro senz'altro viva testimonianza, in quanto da una parte rischia di vanificare l'oggetto religioso, risolti in un'unità indifferenziata che non si vede come possa ancora in generale vita in chi l'attinge, e dall'altra di giungere a una svalutazione della personalità umana assorbita e persa in questa unità assoluta. Qui è un passo che potrà essere molto discusso, perché penso che sia così irritante, insomma, qualche cosa che è un po' strana alla tradizione schopenhaueriana. L'interpretazione, ma poi viene delle cose peggiori. Allora, l'interpretazione schopenhaueriana della mistica e rimanda al misticismo come unica forma di religiosità autentica, non farebbero allora che denunciare apertamente l'aporia in cui la sua filosofia è travagliata, nella sua fedeltà, da una parte l'esigenza individualistico-religiosa e dall'altra lo schema del razionalismo metafisico, con la sua critica alla rivelazione e il suo tema classico della morte del finito. Conseguente alla riduzione, questo razionalismo metafisico, conseguente alla riduzione della creaturalità a male. L'esigenza religiosa porta cioè Schopenhauer all'affermazione di una trascendenza, ma la fedeltà agli schemi del razionalismo metafisico lo porta a smarrire il significato autentico di questa trascendenza nei confronti di questa esigenza. C'è un passaggio dall'ontologico all'ontico, direbbe il nostro amico. Il che è come dire che la filosofia di Schopenhauer è giunta a liberare l'uomo da ogni idolo mondano, fino ad aprirlo alla trascendenza. Ma la fedeltà è un grande demistificatore, uno dei primi, insomma, ma nel senso solo, ma in senso diverso da quello che lo sono Marx e Nietzsche. Ma la fedeltà al presupposto razionalistico e il fatto che gli rimane impegliato nelle categorie di esso gli impediscono di realizzare il significato di questa liberazione nelle sue implicanze ultime e conseguenze. E qui viene un'altra parte estremamente problematica della mia relazione, perché io qui vorrei fare un tentativo di inserire un pochettino Schopenhauer in quel momento di crisi che c'è stato in Europa dopo la morte di Hegel. E tutti quanti abbiamo imparato molto dal libro di Löwitz, con Hegel bis Nietzsche, però nel libro di Löwitz stranamente la figura di Schopenhauer non è presente, se non in modo molto marginale. Qui è un tentativo di riprendere i temi che sono nati da quella crisi, introducendo però un po' di forza la filosofia di Schopenhauer, che anche questo può essere discusso. Ora è chiaro che questa ambiguità, cioè la sua ambiguità religiosa, esige di essere dissipata, e che di fatto può essere in due modi: o con la negazione del razionalismo metafisico, e questa è la via che chiamerai kierkegaardiana. Kierkegaard, infatti, proprio muovendo dalla critica al razionalismo metafisico, giunge ad un'interpretazione del cristianesimo che è esattamente l'opposto di quella schopenhaueriana, insistendo sulla unicità e ripetibilità degli eventi che ne definiscono l'orizzonte, in nessun modo dialettizzabili in un processo storico, così come il cristianesimo in nessun modo, per chi condivida il suo pensiero, cioè il pensiero di Kierkegaard, potrebbe essere ridotto a una delle religioni cosmiche. Questa è una via, la via kierkegaardiana. O l'abbandono dell'esigenza religiosa, nel franco riconoscimento che nell'ambito del razionalismo metafisico è impossibile soddisfarla. E questa è la via che chiamerai nicciana. È ben possibile, infatti, interpretare il niccianesimo come un tentativo di purificare lo schopenhauerismo da ogni elemento religioso, compreso l'elemento pessimistico, per il significato ancora religioso che necessariamente implica, una corsa verso l'ateismo radicale che culmina nel motivo del rifidanzamento col mondo. Ecco, questa, qui ho parlato di Schopenhauer, di possibile interpretazione, però io ricordo un passo delle Erinnerung di Deussen, in cui Deussen racconta di aver mandato i suoi elementi di metafisica a Nietzsche, e Nietzsche gli ha risposto che quel libro costituiva la somma di tutto quello che in Schopenhauer era per lui insignificante. Quindi tutto il pensiero di Schopenhauer chiaramente per Nietzsche era insignificante. Questo apre naturalmente le prospettive che vanno oltre quanto dico, ma come indicazione per il momento può bastare. Forse queste considerazioni possono portare a definire l'importanza di Kierkegaard come critico di un presupposto della filosofia di Nietzsche, quello del razionalismo metafisico, come riduzione della religione a mito, succedaneo della filosofia, che nella sua filosofia resta non problematizzato, pur condizionando lo svolgimento del suo pensiero. Naturalmente Nietzsche è molto più ricco di queste formule, sono puramente indicazioni. In Nietzsche c'è anche questa possibilità, e questa può essere un'interpretazione di Nietzsche. Poi la struttura del suo pensiero, sappiamo bene quel che è. Insomma. Conclusione dunque negativa sul pensiero religioso di Schopenhauer, da un membro della Schopenhauer di Gesù. Non tanto, insomma. In un certo senso, tuttavia, sì, il che spiegherebbe, fra l'altro, la scarsa fortuna che oggi hanno quei filosofi che hanno svolto gli elementi religiosi del suo pensiero, senza problematizzare il presupposto del razionalismo metafisico. Penso a Deussen, in Italia penso a Martinetti, veramente un grande schopenhaueriano, che forse purtroppo al di fuori dell'orizzonte torinese o italiano è poco conosciuto, ma in qualche modo lui era in rapporto anche con la Schopenhauer Gesellschaft. Io ho quotidiano accesso alla biblioteca Martinetti di Torino e posso dire che fino al 1940 ci sono tutti i libri su Schopenhauer esistenti, fatti venire dalla Germania, una cosa molto singolare. Pure, a parte che la sua filosofia, cioè la filosofia di Schopenhauer, permette di cogliere, se è vero quanto siamo venuti dicendo, il senso di un momento estremamente importante del pensiero contemporaneo, questo momento di crisi. Introdurre la filosofia di Schopenhauer in questo momento di crisi filosofica dal 1830 in poi, secondo me, riesce a far penetrare meglio la densità di questa crisi, e proprio per il suo fallimento relativo ci permette di compiere scelte speculativamente illuminanti, c'è da domandarsi se non meriti di essere meditata anche per un altro aspetto. E questo è il terzo punto estremamente questionabile della mia relazione. Schopenhauer, come abbiamo visto, ha assorbito completamente il cristianesimo in quella che oggi chiameremo la sua dimensione religiosa, da distinguersi da quella per cui si pone come rivelazione. E in questo senso l'ha ridotto a una fra le religioni cosmiche, rilevandone l'identità con esse. Ora, ciò, in certo senso, è negarne il carattere peculiare, ma anche chi così pensi può molto imparare da lui. Cioè, penso che anche il cristiano, chi pensi che questa riduzione è impossibile, ha molto da imparare da Schopenhauer. Ci si può domandare, infatti, se oggi non si sia andati troppo oltre. Questa qui è la qualità inattuale di Schopenhauer. Ci si può domandare, infatti, se oggi non si sia andati troppo oltre nel disconoscere la dimensione religiosa su cui Schopenhauer invece tanto insisteva. Se questa dimensione, pur non lasciandosi certamente assorbire il cristianesimo in essa, non sia un aspetto essenziale del cristianesimo, al punto che prescinderne non possa avere come conseguenza che un impoverimento della nostra maniera di vivere il cristianesimo stesso. Credo che si debba rispondere positivamente a queste domande e si debba riconoscere che di questa dimensione religiosa Schopenhauer ha saputo cogliere un tratto essenziale, che certamente si è manifestato nei momenti più alti del pensiero greco e su cui tanta fenomenologia della religione contemporanea ha insistito sino a vedere in esso l'essenza stessa dell'atteggiamento religioso, cioè il bisogno di una salvezza trascendente, correlativa all'esperienza della radicalità del male, un male umanamente irredimibile. Qui Marx e Schopenhauer si scontrano. L'ermeneutica del cristianesimo impone quel mantenimento di unità delle istanze che nel passo sopra citato Baader afferma: l'accadere esteriore e quello interiore. Solo che ai tempi di Schopenhauer era soprattutto l'accadere esteriore che era negato, mentre oggi avviene l'inverso. Donde la possibile attualità del pensiero di Schopenhauer, anche per questo aspetto religioso, generalmente trascurato, come correttivo, appunto. Con ciò non credo di essermi allontanato dalla tematica del nostro convegno. L'invito di Schopenhauer a rivivere il mondo come se non fosse l'ultimo, l'apertura all'altro che la sua filosofia permette ed esige, è forse il modo che oggi resta all'uomo contemporaneo di vivere il sacro, l'esperienza di un mondo che non basta a se medesimo ed è tutto percorso da un bisogno profondo di redenzione. Perché io sono qua, vedi, ho tutte le mie citazioni.